Tempo di sport con Carlo Genta. Nulla sarebbe stato più sorprendente e rivoluzionario di una decisione vera sullo scudetto del 2006. Franco Piantaneda in redazione. Infatti è stato alzato il paravento di carta dei regolamenti. Il Consiglio federale non può decidere, come ben sapete. Aspetto di sentire la vostra. 800 24 00 24. Si astengono Lotito e Abodi, presidente della Lega di B. Dal coro, invece, dal coro unanime dei sì, si leva, si toglie la voce di Dante Cudicio, che diventa per un giorno avvocato e consigliere dell'Asso Allenatori, il signor no. Perché? Lo chiediamo a lui. Buon pomeriggio, avvocato. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Perché no? Io premetto che in Consiglio federale ieri si è discusso preliminarmente di una questione molto importante, propedeutica alla discussione che avrebbe segnato la via dello scudetto del 2006, cioè se toglierlo, revocarlo o lasciarlo là dov'era. Abbiamo discusso solamente e semplicemente se il Consiglio federale era competente a decidere su una materia del genere e ovviamente una volta deciso che il Consiglio federale non era competente a decidere, la discussione si è fermata lì. Sì. Io ho rappresentato in un certo senso solamente elementi di natura giuridica per dire che la competenza del Consiglio federale era abbastanza chiara, e cioè mi sono collegato sia alla legge 241 che parla sia di autotutela sia di documento amministrativo, sia alle norme dello Statuto federale che contemplano la possibilità da parte della federazione di assegnare o meno lo scudetto. La mia argomentazione è stata solamente, ripeto, di natura giuridica. Sì. Nessuno mai trattato di Inter, Juventus o altre squadre. Quindi secondo lei il Consiglio federale era competente a decidere, e con quest'altra argomentazione secondo cui manca un provvedimento di assegnazione, tra l'altro Guido Rossi, come sapete, è intervenuto dicendo: ma noi conoscevamo solo una parte delle telefonate su cui abbiamo deciso, non conoscevamo altro, quelle telefonate che poi sono state tirate fuori, e qui ricomincia il film, il disco rotto di Auricchio e di Narducci e di Beatrice, eccetera, eccetera, in questo palleggio estenuante. Sì. Quindi il Consiglio federale poteva decidere, secondo lei? Sì, poteva decidere, ho detto, per due serie di motivazioni. Sì, sì. La prima era collegata al fatto che la federazione è collegabile all'ente pubblico e quindi soggetta alla legge 241 del 90. Uh-huh. Laddove si dice, si parla di documento amministrativo. L'articolo 22, comma 1, lettera D, dice espressamente qual è la nozione di documento amministrativo. Uh-huh. E comprende in questa definizione tutti gli atti che vengono emanati dalla pubblica amministrazione, anche un'email è un documento amministrativo, sì, per cui il comunicato stampa che il dottor Rossi il 26 luglio del 2006 rese noto, praticamente rappresenta un documento amministrativo. Sì, sì. Proprio sul... com'è? Sì, capisco esattamente questa argomentazione tecnica. Tra l'altro, quest'altra curiosità dello scudetto assegnato attraverso un comunicato stampa e non attraverso un comunicato federale. Ma sì, questi ma sono... vede, il parere degli avvocati interni della Federcalcio era invece che quello non rappresentasse un documento amministrativo. E quindi subiva due preclusioni. Il primo, che non era ricorribile, così come è ricorribile ogni procedimento del documento amministrativo. Il secondo era che non poteva applicarsi l'istituto dell'autotutela, esattamente configurato dalla legge 241, esattamente dall'articolo 21 quinquies. Quindi praticamente se noi dovessimo seguire, per l'amor di Dio, sono osservazioni che possono risultare legittime, no? Sì. Se dovessimo seguire il parere di questi esperti, ci troveremmo di fronte a uno scudetto assegnato senza un provvedimento. Certo. È ben vero che si dice, forse anche ha ragione, ma è materia del contendere, è ben vero che il provvedimento di assegnazione è stato fatto sulla base dello scorrimento della classifica. Sì. Dopo le sanzioni comminate dalla Corte federale, ma è altrettanto vero che l'articolo 13 dello Statuto federale dà ampia facoltà alla federazione di assegnare, lo scudetto. Per cui, a nostro modesto avviso, perché ripeto, siamo nella materia del contendere, certo, del diritto, è un'interpretazione di quel tipo di documento. Senta, ma io posso chiederle, al di là di questi aspetti tecnici che sono poi il paravento dietro il quale c'è stata questa la solita non decisione, io posso chiedere qual è la sua posizione nella materia, cioè nel merito? Ma io glielo ho comunicato un momento fa, cioè io mi sono detto favorevole alla competenza del Consiglio federale. Sì, questo sì. E quindi il Consiglio federale era nella condizione di decidere. Ovviamente io rispetto tutte le decisioni, se la decisione contraria è stata presa con grandissima maggioranza, è una decisione che va rispettata. Ma lei, io posso chiedere se avrebbe revocato lo scudetto o no? Guardi, io una certa idea me l'ero fatta, però attendevo che si aprisse la discussione nel Consiglio federale e sentire le varie posizioni, perché ovviamente in questo caso le posizioni sarebbero state più chiare e più nette. Io dico soltanto che rimanevo nel dubbio se revocarlo o meno lo scudetto. Sì. Volevo attendere le motivazioni degli altri miei colleghi consiglieri federali. Sì. Dopodiché avrei deciso. Quindi in questo momento io non sono in grado di dire cosa avrei deciso. C'è chi scrive Renzo da Milano, la solita paraculata italiana, e chi Roberto, ma di chi è la competenza? Del Vaticano? Questi alcuni interventi. È d'accordo con Abete in questa conferenza stampa fiume in cui è stato bravissimo a non citare mai l'Inter e la Juventus, meraviglioso ieri esercizio di politica. È d'accordo sul fatto che l'Inter poteva dover rinunciare alla prescrizione e buttarsi nell'arena per combattere? Guardi, a parte il fatto che io ho una stima grandissima nei confronti del presidente Abete, perché in questi 2 anni e mezzo che l'ho conosciuto è una persona che lascia spazio ad ampio dibattito, non è mai chiuso ed è una persona eccezionale sotto questo aspetto. Però io ho anche messo il dubbio che la prescrizione, no, che qualcuno dice rinunciabile, no? Qualchedun altro, forse anch'io sono fra questi, timidamente dice che non è rinunciabile. Perché? Mentre nel codice penale l'articolo 157 dice espressamente che la prescrizione è rinunciabile, espressamente, cioè con un fatto scritto, sì, no? Nel codice di giustizia sportiva non si dice esattamente che la prescrizione è rinunciabile. E siccome c'è un vecchio brocardo latino che dice ubi lex voluit dixit, io ho ricordato che, non avendolo citato il codice di giustizia sportiva, questo istituto come fatto prescrivibile, è rinunciabile, cioè ritengo che difficilmente, ecco, potrebbe rinunciarsi da, sì, parte dell'Inter. Ripeto, siamo nel campo della interpretazione. Sì. Se così fosse, cioè se la mia interpretazione fosse esatta, ovviamente l'Inter si taglia la testa, troverebbe in una posizione di minore difficoltà. Certo. Cioè non sono in grado di rinunciare alla prescrizione e dunque non lo faccio, mi tengo lo scudetto, ma non faccio nemmeno questo gesto di dire se volete, se è possibile, rinuncio, ho avuto nell'arena combatto, mi difendo, eccetera eccetera. L'Inter non ha nemmeno abbozzato questa ipotesi, insomma. Avvocato, io la ringrazio. Io la ringrazio, la ringrazio anche per questa chiarissima lezione di diritto e di interpretazione del paravento di carta che è stato usato dal Consiglio federale. Non so se fosse competente il Vaticano oppure no, però abbiamo sentito l'opinione dell'unico signor No nel Consiglio federale di ieri. Franco Pietranini in redazione, Mauro De Angeli in regia e il sottoscritto che non essendo un politico e non dovendo impegnarsi in dribbling difficili continua a pensare e a dire quello che ha sempre detto, cioè che non si dovesse assegnare quello scudetto in un campionato irregolare. Altrimenti, se non fosse stato assegnato o non assegnato con un comunicato stampa o fatta slittare l'ordine della classifica, perché qui siamo in un meraviglioso slalom che continua da 5 anni, non saremmo qui 5 anni dopo a riascoltare in modo schifoso, più che perverso schifoso, telefonate di defunti. Intanto, a proposito di slalom, Abete ieri. Non essendo esistente un atto amministrativo di assegnazione dello scudetto, non era possibile svolgere un'azione comunque di revoca di questo atto amministrativo non esistente. La proposta del presidente federale sarebbe stata quella di non revocare, voglio dire, lo scudetto, anche se fosse stato, voglio dire, valutato essere esistente un atto amministrativo a monte per il quale era possibile un atto di autotutela successivo. Reach the stars, fly a fantasy. Tutto si è legittimati a dire, fuorché che si sia deciso di non decidere, si è deciso di rispettare le regole e all'apere del fatto che non si possono decidere delle situazioni afferenti una non competenza sulla base dell'autonoma valutazione della federazione che ha assunto ovviamente i suoi consigli e i suoi pareri, ma la proposta non è degli avvocati, la proposta è del presidente della federazione. Ha anche espresso una posizione chiarissima di merito, anche qualora ci fosse stata, voglio dire, una titolarità ad intervenire con un provvedimento di autotutela. Io ce lo vedrei abbastanza bene, Avete vestito da Fortuna Drago, vi ricordate quel personaggio del meraviglioso della storia infinita? 800 24 00 24 per intervenire. Intanto chi scrive al 349 238 6666, ma l'Inter più che alla prescrizione non potrebbe rinunciare al titolo, si chiuderebbe, ciao Simone da Padova, si chiuderebbe ogni polemica e darebbe una bella lezione di stile, cosa che onestamente non sta facendo. È chiaro che sono d'accordo con Simone da Padova, ma questo secondo me sarebbe dovuto accadere ormai 5 anni fa, secondo me, quello scudetto che i non interisti considerano di cartone, che Mourinho invece vide un giorno ritirato, dichiarò ai suoi giocatori essere stato ritirato in segreteria, che per gli interisti è il più bello perché è simbolico. Ebbene, uno scudetto che a mio parere doveva finire come quello dell'anno precedente, cioè non assegnato in un campionato irregolare. Antonio da Napoli, c'è chi è stufo di questa storia, figuratevi il sottoscritto che ne parla da 5 anni. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì, volevo parlare anche dell'argomento del giorno. Volevo dire che da un punto di vista, diciamo, della moralità, anche se sicuramente non... Della moralità. Non conosco. Dico. Non conosco quella signora. Quelli del calcio non la conoscono. Volevo dire, se si può fare, non si può fare, il regolamento lo dice o non lo dice. Comunque... sarà anche vero che, diciamo, Facchetti sarà stato una persona alta, bella, bionda, diciamo oggi con gli occhiali, calvo, col naso lungo. Però delle chiamate che sono state buttate fuori, date fuori, non possono lasciare dubbi sul fatto che diciamo tutto quello che è avvenuto nel 2006 è da considerarsi, diciamo così, una sorta di farsa. Sì. Poi si può fare lo scudetto, se ne possono vincere anche altri 30, ma dal punto di vista morale, per me è vergognoso. Poi sì, guardi Antonio, io invece trovo vergognoso dal punto di vista di quella signora che lei cita, la signora morale, trovo vergognoso che si stia qui più che vergognoso, schifoso che si stia qui a riascoltare telefonate di defunti 5 anni dopo, no? È chiaro che per fare la rivoluzione bisogna averne voglia e il Consiglio federale ieri non aveva nessuna voglia, se non il paladino Dante Cudicio che abbiamo sentito prima, magari lui sì, avrebbe avuto voglia di fare la rivoluzione. Questa rivoluzione non è stata fatta. Io trovo, continuo a trovare schifoso che si stia qui ad ascoltare, 5 anni dopo, le telefonate di un defunto. In tutto questo però ho trovato anche delle cose che mi hanno abbastanza divertito, che ho trovato anche intelligenti, come la reazione, ad esempio, di un gruppo bipartisan di deputati juventini, e cito Andrea Sarrubi del PD, Massimo Corsaro del PDL, Marco Calgaro dell'UDC, David Favia dell'Italia dei Valori e Gianluca Buonanno, leghista e sindaco di Varallo Sesia. Dopo i campionati vinti per distacco, quelli conquistati all'ultima giornata e quello portato a casa dopo un epico spareggio con il Bologna, l'Inter può finalmente coronare il proprio palmarès con una specialità mancante che nessun'altra squadra al mondo può vantare, cioè lo scudetto per... Gianluca Buonanno, buongiorno. Buongiorno. Lo scudetto per... Usucampione. Cioè... Usucampione. Invece dell'usucampione che ci vogliono 20 anni, loro in 5 anni sono riusciti a fare quello che solitamente si deve fare in 20. Sì, e Abete è la quintessenza del politico. Guardi, Abete io la vedo veramente come un grande Don Abbondio. Sì. E poi ho visto che comunque nel mondo dello sport, cioè la politica c'ha già le sue grane e sì, bisogna rivoluzionare tante cose, e io sono uno di quelli che dice appunto che bisogna fare piazza pulita di tante cose. Però nel mondo del calcio, così come dello sport, il vedere che il nome nuovo è Carraro per lo sci, sì, dopo 40 anni fischia che cioè Abete, Petrucci, cioè questi sono i nomi nuovi anche nello sport. Si vede che l'Italia è veramente un paese di preistorici. Sì, più che altro è un paese che ha un grave torcicollo, tutti a guardarsi indietro considerando il passato più importante del presente e del futuro. Questa è una infatti, storia vecchia. Quando, adesso che vado a vedere le catacombe a Roma, voglio vedere se trovo ancora qualcuno che è attivo in qualche settore, perché dalla politica allo sport mi viene male. Sì, Abete la quintessenza del politico, magari potrebbe farvi comodo se lascia lo sport. Non so, no, se voi la leggo qualcun altro. Che nelle banche, quindi va bene. Va bene tutto, insomma. Per i non interisti è di cartone, immagino anche per, anzi, sono certo anche per lei, perché l'avete dichiarato. Infatti, ho fatto anche i vigili di cartone, sono quello che ha inventato i vigili di cartone. E allora ho pensato che per gli interisti andrebbe bene un bel vigile con lo scudetto di cartone, così quando vedo la russa glielo dico. Ma funzionavano i vigili di cartone? No, funzionano, perché abbiamo diminuito gli incidenti del 30% e anche le multe. Invece di mettere gli autovelox che bastonano la gente e servono a mio giudizio pochino, è meglio mettere un vigile di cartone. Sì. Che uno quando va in macchina, ovviamente, che non è ben concentrato su chi c'è e chi non c'è, quando vede da lontano una sagoma rallenta, quello è quello che vogliamo noi. Poi quando si avvicina a 5 metri e capisce che è di cartone, ormai l'abbiamo fregato. Però quello che ci interessa è che vada più piano. L'importante, no? È che i miei amici ascoltatori non vogliano un giornalista di cartone, perché c'è anche questa proposta. Però i giornalisti di cartone non parlano, mi spiace, no, per voi. 800 24 00 24. Senta, io continuo. Per lei è di cartone, per Mourinho è stato ritirato in segreteria, per gli interisti è il più bello che c'è. Io continuo a considerarlo per gli interisti, sì, è il più bello di tutti, è un simbolo, cioè è il simbolo, sì, da mettere sul bavero. Io ho un fratello interista. Cosa dice lui? Ovviamente lui dice il contrario di quello che dico io, ma questo è anche ovvio. Il bello della vita, insomma, ci si scherza sopra. Però pensare che se ci sono delle regole per la Juventus vengono applicate, e per l'Inter dopo 5 anni che si viene a sapere che nessuno si può permettere di telefonare al disegnatore, l'hanno fatto in diversi, per la Juve è tutto negativo e per gli altri alla fine arriva, sì, il colpo di spugna. Io sono sempre stato integralista da questo punto di vista. Se uno telefona al giudice, il processo è nullo, l'ho sempre detto, e vale per l'Inter, per la Juventus e per tutti gli altri. Trovo invece schifoso che si continuino a riascoltare telefonate di uno che non c'è più, che è Giacinto Facchetti. Io le chiedo invece prima, tutto rispetto, io non ho niente, ci mancherebbe, non l'ho mai conosciuto. È stato un grandissimo calciatore e secondo me è stato un bravo dirigente, sì, però se lui ha comunque travalicato quello che sono gli aspetti diciamo così, le regole, sì. E non è che non si può dire. Sì, sì, no, ma questo non, infatti non lo sto dicendo, mi fa schifo tutta la storia intera. Sì, non, lo stesso Moratti dovrebbe avere il buon gusto di dire, in effetti facciamo una cosa, lasciamo stare questo 2006, perché poi chi ha deciso questo, chi è stato? Colui che era dentro nel consiglio di amministrazione dell'ILTA qualche anno prima, cioè Rossi. Uh-huh. Cioè, ma ci vogliamo prendere per i fondelli? Ma forse sì. Come la vede? Come la vede la Gaspinter invece? No, perché cosa devo vedere ormai? No, l'Inter di quest'anno, l'Inter di Gasperini. La Gasperini era uno juventino e quindi... piemontese, no, ma secondo me ha fatto bene perché risparmia soldi rispetto a chi aveva come allenatore prima. È un italiano, sì. Secondo me può fare bene. È un infiltrato, lei dice? No, vabbè. Ci mancherebbe, sono tutti professionisti, quindi dove vanno a lavorare giustamente, poi si dedicano tutto alla squadra con cui vanno. Però c'è una metafora secondo me che è interessante, e cioè che se uno come Gasperini, che a Genova è stato mandato via perché non era più capace di tenere il sistema, e ha avuto poi un'opportunità ancora più grande perché poi è andato in una grande squadra come l'Inter, e quindi non è detto che se uno fallisce da una parte poi non abbia un futuro nel calcio, ma in politica alla fine uno può ritornare. Si ricicla sempre. E lo stadio della Juventus non è di cartone, quello no, è vero. L'8 settembre ci vado anch'io, che se è lì ha sbagliato, ma si può fare una data dell'8 settembre? Cioè l'8 settembre per l'Italia è il ricordo di Badoglio, quindi mi viene un po' male. Si però, vede che, ma sa, i calendari no, del calcio. Anche questa è una battuta. Juve Manchester è comunque una grandissima amichevole, e secondo me la Juve in questo caso ha visto più lontano di altre, perché l'operazione dello stadio è una grandissima operazione che tutte le squadre di vertice dovranno seguire, altrimenti saranno tagliate fuori. Questo è verissimo, questo è verissimo. Io la ringrazio davvero, è stato un piacere parlare con lei. Ma ci mancherebbe, finalmente posso parlare di qualcosa di serio. Sì, come... No, rido un po' perché ci sarebbe da piangere tutto il giorno. Ma perché? È bello anche scherzare. Ma è quello che vogliamo, insomma, perché siamo pieni di gente che la prende troppo seriamente questa storia del calcio in generale, dello Scudetto 2006 in particolare. La ringrazio davvero, Gianluca Buonanno, leghista, deputato, sindaco di Varallo Sesia e soprattutto grande juventino. Noto che ci sono anche dei messaggi che trovo abbastanza schifosi, come chi scrive Massimiliano, non è che se uno muore diventi intoccabile, è comodo nascondersi dietro a queste consuetudini, ma ci pensate quando scrivete o vi riascoltate quando parlate? Ma... vi do invece delle notizie che arrivano da Shanghai, teatro dei mondiali di nuoto, dove questa mattina c'è stata una drammatica gara dei 10 km di fondo in cui la nostra Giorgia Consiglio è stata costretta al ritiro a metà gara perché è fermata da una crisi di panico, crisi respiratoria. È stata tirata fuori dall'acqua, era spaventata, insomma, crisi di panico in piena regola, come quelle che ha attraversato Federica Pellegrini per molto tempo. Poi la gara naturalmente si è conclusa per tutte le altre con una medaglia d'argento all'Italia, che è arrivata da Martina Grimaldi. Invece c'è un'altra medaglia, quella di bronzo di Tania Cagnotto nei tuffi, 1 metro donne, bronzo per la Cagnotto, che ha detto: stavolta mi faccio davvero i complimenti da sola. Ai piedi del podio l'altra azzurra, Maria Marconi, in questa gara dominata dalle cinesi. Mentre per quanto riguarda la pallanuoto, stiamo facendo polpette del Sudafrica, ieri battuto dal 7 bello dai maschi, oggi dalle ragazze, 18-2 per l'Italia sul Sudafrica, dunque mondiale di nuoto in Giappone, in Cina, a Shanghai. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. Intanto un'altra storia carina, che non riguarda ovviamente questa sentenza del 2006, è quella, ne avrei parlato volentieri oggi, è quella della detottizzazione della Roma. Sentiamo una cosa. Micro come un gatto e di più. Cerco avete un'idea per dipingere magari anche Francesco Totti? Sapete che Baldini ha detto: Totti è pigro, può allungarsi la carriera di 4-5 anni, ma deve pensare soltanto al calcio, ha troppi privilegi, ha fatto il mercato della Roma. Negli ultimi anni ha fatto il bello e cattivo tempo, è diventato un giocatore che andava oltre il calcio, eccetera, eccetera, eccetera. Totti non ha risposto in un primo tempo, poi ha risposto, e come la Consiglio federale ha deciso di non rispondere, perché ha scritto, ha comunicato: se rispondo è un disastro, se rispondo faccio male a qualcuno. Insomma, io vedo Totti, il pigro gattone Totti, in grave difficoltà nella Roma che sta nascendo, dopo quelle parole anche troppo mielose per non essere sospette di Sabatini il giorno della sua presentazione, della presentazione di Walter Sabatini come DS della Roma. Lorenzo, provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io ho chiamato qualche settimana fa, lei si ricorderà di me, che le dissi: sono Lorenzo e sono contento. Sì. Io sono ancora più contento, ma le spiego perché. Volevo fare un appunto, diciamo, nazionale. Sento troppo vento. Ora non lo sentirà più perché entro in macchina, guarda. Ah, così posso sentirlo anch'io, Lorenzo, che è contento. Dica. Sono settimane che cerco di parlare, sostanzialmente. Sì. Guarda, tutto quello che si dice, sostanzialmente, sullo scudetto dell'Inter cade, forse cadrà, è caduto 6 anni fa. Per qualcuno cadrà dopo questa chiamata. Ah. Semplicemente perché quello che non valutate nella vostra ottima discussione, anche interessante giuridicamente, tutto quello che volete, è la differenza enorme che c'è fra le chiamate intercettate di Facchetti e le telefonate che hanno portato alla decisione di cui ho sentenza o copia, come tutti quanti, perché era sul sito della Lega Nazionale Professionisti. Ha portato la sentenza della retrocessione della Juventus, la revoca degli scudetti, la non assegnazione, la penalizzazione del Milan, Fiorentina, eccetera. Sì. La differenza è una soltanto, è semplicissima. All'epoca del gatto e della volpe, vedasi per Bergamo, sì. Non è vero che il designatore fosse Bergamo e Peretto. Il designatore era Peretto e basta. Siccome si riteneva molto furbo Bergamo Paolo, in realtà forse anche potesse essere che lo fosse, comunque si era preso l'onere di intrattenere rapporti con la dirigenza. Ora, al di là del fatto che questo sia legittimo o non legittimo, nella nella politica dell'epoca era stabilito che Peretto fosse il, tra virgolette, interlocutore con gli arbitri. Sì. Bergamo Paolo fosse l'interlocutore con i dirigenti, sì, per scelta della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Sì, di alcune squadre. Sette squadre che hanno voluto il doppio. Sette hanno avuto il doppio. Siamo d'accordo, dottor Genta, siamo d'accordo. No, ma non lo dico io. Allora, nel momento in cui tutti questi giovani, tutti questi milanisti mi dicono: anche Facchetti chiamava, io dirò di più, che se Bergamo Paolo non veniva chiamato, e questo lo dicono tutte le intercettazioni che ci sono, era lui a chiamare la società. Forse sta chiamando anche lei, sento un telefono. No, non ci sono problemi. Era lui a chiamare la società che non lo chiamava, dicendo: ci sono intercettazioni. Guarda, come mai non mi chiami? Che è successo? Che è successo? Che è successo? No, ma guardi, non discute, fosse un sistema perverso, è indubbio, ma io infatti mica dico nulla, dico soltanto che quello scudetto non doveva andare a nessuno come quello dell'anno prima, cioè che è stato sbagliato comunque assegnare lo scudetto in un campionato irregolare. Se poi lei mi dice che quelle telefonate di Facchetti avevano un peso e un contenuto diverso rispetto a quelle di Moggi, sono d'accordo. Poi si tratta di valutare le posizioni, il fatto è che quelle telefonate c'erano, che sono uscite più tardi, insomma, c'è tutta questa tiritera che conosciamo bene, che tira in ballo adesso Auricchio, Narducci, Beatrice, che erano i PM, eccetera. Perché non sono state trasmesse prima a Guido Rossi? Questa domanda legittima, peraltro, degli juventini. Quelle telefonate prima non c'erano, poi sono comparse, eccetera, eccetera, eccetera. Io trovo perverso il fatto che ci fossero quelle come le altre. Poi è chiaro che hanno un peso, un contenuto diverso, perché una sostanza profondamente diversa, come lei dice. Il fatto è che quella sostanza non è stata valutata e probabilmente non lo sarà mai. Mario, provincia di Palermo, scusi. Mario, buongiorno. Ciao, grazie per ciao. La provincia di Bergamo, sono internazionale, siciliano doc. Ascolta, allora così non perdiamo tempo, intanto salutiamo tutti i radioascoltatori. Sì. Io voglio dire solo due cose molto molto veloci. La prima è, non sono d'accordo con te perché le telefonate sono completamente differenti. L'ho detto adesso. Se io chiamo... Ma sono detto adesso? Ma Mario, l'ho detto adesso che sono differenti. Sì, ma io ti voglio dire, se io chiamo perché dico che io non voglio questa terna arbitrale perché rinomatamente al fio della Juventus, sì. Io penso che sia legittimo fare questa telefonata e qualunque cosa voglia dire chiunque altro e voglia dire che Facchetti faceva questa cosa in maniera scorretta, sì, assolutamente scorretto, perché cercava di tutelare e di avere un arbitraggio onesto anziché di parte. Signori, non scherziamo con le cose serie, perché ricordiamoci che questi arbitri erano capaci di ammonire i giocatori, che la settimana dopo, il giorno dopo, i giocatori venivano poi... Sì, questo è un antico cavallo di battaglia, però non si può neanche dire che sia un sistema in cui io chiamo il disegnatore e dico non voglio quelli perché so che quelli... spalleggiano la Juventus, quelli non dovrebbero spalleggiare la Juventus, e dunque siamo sempre all'interno di un sistema totalmente schifoso, totalmente malandato, totalmente inaccettabile e ingiustificabile. Insomma, mettete quello che volete, aggiungete quello che volete, però non esiste in un paese normale che quello telefona al disegnatore e dice non voglio quei tre arbitri perché quelli li paga la Juventus, sono dalla parte di Moggi o hanno le schede telefoniche di Moggi. Non esiste questo come concettualmente, no? Se vogliamo, quindi non sto ad approfondire il discorso e il contenuto di quelle telefonate, semplicemente perché quelle telefonate, come altre, hanno un peso diverso, un contenuto diverso, semplicemente perché le telefonate in un mondo normale non ci dovevano essere. Questo è il mio parere, e se c'erano quelle telefonate allora non doveva esserci quello scudetto. Questo è il mio parere, ma che ho sempre espresso. 800 24 00 24, vediamo, andiamo da Ermanno, questa volta provincia di Venezia, e non mi sbaglio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, entro nel merito della discussione dopo che sono stato già anticipato in merito alle telefonate di Facchetti. Non sta a me giudicare se erano più o meno gravi di quelle di Moggi. Premetto che sono juventino. Sì. La domanda che noi dovremmo farci è perché i magistrati di Napoli hanno fatto sparire queste telefonate. Perché siano comparse con ritardo, lei dice, Fatte sparire in quel momento, in quel dato momento storico, sono state fatte sparire. Sì. Altrimenti, se fossero uscite in quel momento, l'obiettivo che si era prefissi non sarebbe stato raggiunto. E vorrei aggiungere un'altra cosa. Qui vicino a Concordia Sagittaria, a Udine, in tribunale a Udine, sì, il signor Lelio Oriali è stato condannato, ha patteggiato un anno e due mesi, mi pare, per acquisto di patenti rubate e passaporti falsi, quindi ricettazione. Sì, ha detto che potrebbe chiedere la revisione del processo, però questo cosa c'entra? No, c'entra con l'etica dell'Inter, perché se aggiunge tutto quanto, allora ne traiamo un quadro distorto. Io sono d'accordo con lei quando dice, quando fa la domanda, ma perché quelle telefonate non le aveva sul tavolo Guido Rossi? E questo io non lo so, però è una domanda perfettamente legittima. Però se lei butta in mezzo anche la sabbia dei passaporti, allora non ci siamo, perché questo non prova un bel nulla, secondo me, non prova l'etica dell'Inter, prova un comportamento sbagliato per cui c'è stata una condanna sacrosanta, credo, no? Però secondo me in questo modo, questo è il modo peggiore, perché vuol dire non scegliere, cioè buttare tutto nello stesso calderone e allora dire anche l'Inter faceva le telefonate, non mi interessa qual era il contenuto, erano dei mascalzoni perché compravano passaporti e patenti, e allora arriviamo ad una sentenza di condanna. Ma non è così che si fa, a mio parere, quindi questo io non lo condivido. Se poi lo vuol dire, è liberissimo di farlo, come ha appena fatto. Oh, è arrivato Balotelli sulla sua Harley Davidson nuova. Peccato perché... No, non era Balotelli perché non gliela fanno usare. Ma sapete, questa è la bellissima sulla Gazzetta lo sport, c'è questa foto di Balotelli su questo motorone nuovo che si è comprato, è arrivato all'allenamento e gli hanno detto: no, guarda che non puoi venire all'allenamento in moto, la moto non la puoi mica usare, perché per regolamento interno ti è proibito, e quindi l'ha parcheggiata in garage. Magari si può fare anche un affare, che dite? Perché tanto quella moto non la userà mai. 800 24 00 24, c'è chi si è stufato di basta un calciopoli, scudetto 2006, parliamo di calcio, oppure scusi francesismo ma che palle con questa storia dello scudetto del 2006, immaginatevi un po' come la penso io. E domani proveremo, anzi sono certo che cambieremo argomento, ma oggi no. Oggi no, perché questo è l'argomento del giorno. 800 24 00 24, basta, vi prego, parliamo di calcio giocato, non se ne può più. Ma quale calcio giocato? Faccio i complimenti al Giappone, campione del mondo femminile, come mi chiede un ascoltatore, titolo vinto nei giorni scorsi, ma di calcio giocato in questo momento pochino, è ferma al momento anche la Coppa America, di cui abbiamo parlato a lungo. Maurizio, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno a lei, volevo appunto cambiare argomento e parlare, io sono tifoso interista, sì. Quindi volevo parlare dell'Inter, ma dell'Inter che si sta allenando e che dovrà ripartire con la Supercoppa italiana. Come la vede lei questa nuova formazione, con la possibilità di Wesley di giocare a centrocampo e più in generale con la possibilità di inserire, diciamo così, quel paio di nuovi campioni che speriamo possano arrivare? Ma diciamo quali? Così. Ma c'è questo brasiliano che sembra che l'Inter debba, almeno stanti i giornali, debba comprare Casemiro, se non mi ricordo. Sì, Casemiro, guardi, io non so risponderle, anche perché prima bisognerà capire qual è l'Inter, bisognerà capire soprattutto se Sneijder va o sta, se Maicon va o sta, se Beto rimane, gli altri restano. Non mi sembra una squadra molto diversa dal passato, però prima bisogna aspettare il 31 agosto, ho paura Maurizio, perché un conto è questa squadra con questi giocatori, un altro sarebbe un Inter senza Sneijder, tanto per dirne una. Non sono così convinto poi che possa rimanere, che rimarrà alla fine Sneijder, giocatore chiave secondo me in quest'Inter. È chiaro che se va via Sneijder qualcun altro dovrà arrivare, se no fatalmente bisognerà parlare di un Inter un po' più debole rispetto all'anno scorso, non trova? Sì, sicuramente. Ma la mia domanda è questo fair play finanziario, che giustamente deve arrivare nell'arco, mi sembra, di un anno o due, impoverirà il nostro calcio, poi ci obbligherà a vendere questi campioni, questi giocatori, diciamo così, di primo ordine, proprio perché non riusciremo a pagarne l'ingaggio, a gestire squadre con, sì, diciamo così, così grandi campioni, o il merchandising, oppure come ha fatto la Juventus, la creazione dello stadio personale, diciamo così, privato, permetterà questo alla Juve e a tante altre squadre di poter riuscire a mantenere grossi campioni, perché poi ne verrà a perdere un po' tutto il senso. È questo, ma il senso è questo, Maurizio, il senso è che insomma del fair play finanziario, che peraltro in questo momento mi sembra in Europa preoccupare soltanto l'Inter in maniera così stringente, discorso che abbiamo già fatto, mi sembra che questo meccanismo del fair play finanziario sia volto a penalizzare proprio le squadre come quelle, la maggior parte di quelle italiane, che gestiscono il calcio in maniera antica, molto demodé, con il mecenate che mette i soldi, con stadi che non sono di proprietà, con un merchandising che non è sfruttato fino in fondo, insomma secondo criteri che sono gli stessi di moltissimi anni fa, insomma, e quindi il fair play finanziario è destinato a penalizzare fatalmente queste squadre. E mi pare comunque che all'estero non ci siano grandi preoccupazioni così stringenti dei grandi club. Credo che insomma questo potrebbe allargare ulteriormente la forbice tra i nostri club, i nostri top club soprattutto, e quelli di altri paesi. Pier Augusto Stagi dal Tour, buongiorno Pier Augusto. Ciao, buongiorno. Volevo venire in moto con Balotelli ma non gliela fanno usare. Ah sì. E allora però portalo domani, siamo a Pinerolo, arriviamo in Italia. E domani il favorito della tappa, secondo me, è un italiano. Il favorito della tappa è secondo te un italiano? Sì, perché c'eri anche tu qui il giorno in cui l'italiano di qui sopra disse: a me interessa quella bandierina. A me interessa quella bandierina, sì. Ivan Basso l'ha detto. Ivan Basso, come sapete, ci racconta il Tour de France ogni giorno. disse prima di partire: quella è la tappa che più mi attira, quella che arriva a casa mia, cioè a Pinerolo, domani. Io in realtà credo che in realtà abbia bleffato e lui interessa il bandierone da portare a Parigi. E spero francamente che la pensi così. Di sicuro lui e i Liquigas faranno di tutto per mettersi in mostra, ma credo anche che domani possa essere in realtà la giornata anche di Damiano Cunego, che probabilmente ha abbandonato sui Pirenei i sogni di gloria, i sogni di classifica, i sogni di maglia gialla, e quindi cercherà di andare a prendersi un prezioso premio di consolazione proprio su un traguardo comunque molto importante e prestigioso come quello di Pinerolo, dopo aver scalato il Monginevro e il Sestriere. Quando si decide il tour? Giovedì con la tappa di Pinerolo, ma il giorno dopo c'è Agnelli, Isoar, Galibier, tre mostri uno dietro l'altro, e poi venerdì si va col Telegraph, Galibier di nuovo e arrivo sull'Alpe d'Huez. Credo siano i due giorni decisivi del Tour de France. Assolutamente così. Credo che però il tappone che darà veramente una fisionomia quasi definitiva sarà quello di giovedì, perché è una tappa lunga, 200 km, durissima, con addirittura tre colli hors catégorie, come dicono i francesi, tutti sopra i 2000 metri, il colle dell'Agnello a 2700, l'Isoara a 2003 e l'arrivo sul Galibier a Serre Chevalier a 2645, record. Mai una tappa del Tour de France ha avuto un arrivo così alto, e io credo e spero che lì Ivan, soprattutto parlando in chiave azzurra, sappia dare tutto, perché è la sua tappa, è assolutamente la sua tappa, la tappa della fatica, la tappa della resistenza. Bisognerà che lui riesca anche a motivare come non mai la sua squadra, perché deve essere veramente supportato, e soprattutto mi auguro che al suo fianco resti fino all'ultimo anche Silvestre Smith, cosa che non è riuscito a fare nella tappa di Plateau de Bay, dove è rimasto troppo isolato e alla fine Ivan non è riuscito proprio tecnicamente a fare la differenza, perché gli è mancato un punto d'appoggio, soprattutto uno che tenesse elevata la media. Sì. E invece senza un uomo così importante gli Slack hanno praticamente rovinato tutto, non facendo assolutamente bene né a loro stessi né a un corridore come Ivan, che potrebbe trovare proprio nei fratelli Slack, nella squadra degli Slack, la Leopard, i migliori alleati. Sì. Io infatti mi auguro che lo vedi al top, Ivan Basso? Guarda, fisicamente mi sembra a puntino. Sì. Ed è arrivato e arriva nella terza settimana come lui voleva arrivare. La condizione c'è, è proprio in un momento ottimo anche a livello psicologico. Forse la tappa appunto di Plateau de Bay l'ha un pochino così toccato a livello di entusiasmo, perché alla vigilia di quella tappa lui era veramente molto convinto di giocare a tutti gli effetti. Sì. per la maglia gialla, e invece la sera ha percepito chiaramente che aveva buttato via un'occasione. Non c'è da accusare nessuno, però bisogna dirlo, gli è mancata la squadra, gli è mancato un supporto, perché lui, non disponendo di uno scatto, sì, ma andando in progressione, deve fare progressione, ha bisogno di chi li tiene elevatissimi. Certo. Deve cuocere gli avversari, non può stenderli con lo scatto secco, da quelli deve difendersi, ed è quello che ha fatto con gli scatti un po' autolesionisti. Per farci capire anche da chi magari non è tanto appassionato di ciclismo, lui ha bisogno di corridori, di compagni di squadra che tengano una velocità costante ma molto elevata, diciamo 40 all'ora su strade dove si fa fatica. Sicuro. Ad andare, e lui poi a 4-5 km va a 42-43 e fa certo, la differenza. Certo. Dico delle medie che non sono così, perché parliamo di invece di 24-25 all'ora su strade di questo tipo. partito. Sicuro. Beh, ad però esempio siamo... io temo un po' la tappa dell'Alpe d'Huez, perché è vero che c'è di nuovo il Galibier, l'arrivo all'Alpe d'Huez, ma è una tappa molto breve, 109 sì. chilometri, non è la classica tappa adatta a Iran, perché lui proprio ha bisogno, lui delle lunghe è distanze. Fakiro, lui ha bisogno delle grandi distanze. Delle grandi distanze, quando però io credo che quando arrivi, quando gli altri calano, lui rimane costante. Certo. Beh, comunque giovedì e venerdì i giorni della verità li vivremo con Pier Augusto Stasi, ma soprattutto con Ivan Basso, che troveremo naturalmente questa sera dopo il GR delle 19. Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia. Con A Tempo di Sport invece torniamo domani pomeriggio alle 2. Ciao a tutti.